voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Di Simone Spezia. Buongiorno cari ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a Voto Antonio, la trasmissione con la quale ogni settimana cerchiamo di raccontarvi come la rete cambia la politica e come voi potete cambiare la politica con la rete. Beh, su questo secondo fronte abbiamo un nitido esempio. Avete visto il grande successo del Movimento 5 Stelle, un movimento che molto si è alimentato naturalmente proprio con la rete. Vi devo anche esprimere la mia soddisfazione, la grande soddisfazione, perché è finita la par condicio, è finito il silenzio elettorale e quindi finalmente potremo trattare qualche argomento con una maggiore tranquillità. Insomma, come sapete, senza esprimere squilibri, senza essere squilibrati da una parte o dall'altra, ma semplicemente raccontando quello che circola in rete, le cose quantomeno più interessanti. Una prima notazione iniziale in apertura di questa trasmissione che ci sembra importante. Discuteremo più avanti nel corso della trasmissione di che ruolo abbia avuto effettivamente internet, la rete, che ruolo abbiano avuto i social network all'interno di questa campagna elettorale, che ruolo stiano avendo nella politica. Di certo dobbiamo registrare che in questo post elezioni la rete sta svolgendo un ruolo molto importante, quantomeno a livello di informazione, a livello di disintermediazione del messaggio da parte dei politici. Cioè, i politici non hanno più bisogno di passare, in questo caso, dalla televisione o di passare tramite noi giornalisti, ma comunicano direttamente. Chiaramente, maestro in tutto questo è Beppe Grillo. Se ci fate caso, in settimana gran parte del dibattito, il principale dibattito, ossia quello fiducia sì, fiducia no ad un eventuale governo Bersani, è passato tantissimo attraverso la rete. Ci sono appunto i post di Beppe Grillo e poi l'interazione con questi post, ossia tutti i commenti. Alcuni dei più votati, per esempio, erano contrari al fatto di non dare la fiducia ad un governo Bersani. E poi si è discusso tanto dell'ipotesi che Matteo Renzi potesse diventare, essere indicato lui come premier, che Bersani proponesse questo nel momento nel quale andrà dal capo dello Stato. Ebbene, lo stesso Matteo Renzi ha risposto su Twitter, su Facebook e con le sue e-news. Nel frattempo lo stesso Bersani interviene su Twitter. Insomma, come vedete, qualcosa sta cambiando, quantomeno nel modo di trasmettere il messaggio. I contenuti alla fine sono sempre quelli, però c'è appunto una disintermediazione nuova. E in questo, va detto, il Movimento 5 Stelle, non sono un entusiasta del Movimento 5 Stelle, però il Movimento 5 Stelle su questo ha avuto un ruolo. Il dibattito su questi temi qua, proprio in forza del fatto di come è nato il Movimento 5 Stelle, si sta effettivamente svolgendo in rete. Di questo parleremo più avanti, anche di questo parleremo più avanti, e vi preannuncio anche che abbiamo predisposto, proprio grazie a questa par condicio che è finita, nella seconda parte della trasmissione abbiamo predisposto una sorta di galleria degli errori, degli errori e degli orrori, manchevole quanto volete, perché non ci sarà tutto quello che vi aspettate di trovarci, però c'è un discreto quadro di insomma quante cose brutte sono apparse in rete in questa campagna elettorale. Italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Come già si diceva in apertura, finalmente è finita la par condicio, finalmente non abbiamo più il silenzio elettorale. La settimana scorsa ci è mancato l'appuntamento con Stefano Folli e quindi torniamo oggi. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Eccoci, però ne sono successe di cose in questi giorni. Esattamente, una settimana discretamente intensa, per così dire. Cos'è un cul-de-sac quello nel quale si è ficcato il Partito Democratico? Perché, insomma, se fai un governo con l'appoggio di Grillo e fai le cose che dice lui, comunque lo avvantaggi. Se fai un governo col PDL, comunque avvantaggi Grillo. Guarda, il problema è questo, che è successo qualche cosa che onestamente non era stato previsto da nessuno, né dai sondaggisti, né dai giornalisti politici, naturalmente. È la tempesta perfetta, l'abbiamo definita sul Sole 24 Ore. Una situazione in cui in apparenza non ci sono vie di uscita. Pareti levigatissime su cui è impossibile arrampicarsi, tre blocchi, ognuno dei quali occupa circa un terzo dell'elettorato, ma ognuno dei quali è contrapposto agli altri, e nessuno è in grado di fare un'alleanza seria con almeno uno degli altri due blocchi. Quindi cul-de-sac, appunto, vicolo cieco, e tutto nelle mani del Presidente della Repubblica, il quale deve trovare davvero, deve dare fondo a tutte le sue risorse per riuscire a trovare la quadra. Non vorrei essere napoletano, veramente. Anche una certa età, il Presidente della Repubblica già un anno fa si è trovato, come dire, no, nel famoso fate presto. Hai visto però come è determinato? Hai visto in Germania come ha sbattuto la porta in faccia a quel socialdemocratico che aveva mancato di rispetto all'Italia? Lui è vecchia scuola, è una scuola politica dura, e riesce a destreggiarsi. Io non mi stupirei che anche questa volta trovasse una soluzione, perché la cosa peggiore sarebbe di tornare al voto adesso, veramente sarebbe esiziale. Questo è qualcosa su cui tutti devono riflettere, certamente. Bersani è uscito veramente malconcio da questo voto, pur avendo una forza che ha la maggioranza relativa dei seggi in Parlamento, tanti seggi, anche in virtù del famoso Porcellum, che tanto odiato dal centro-sinistra. Però grazie al Porcellum in questo momento il Partito Democratico ha una bella dote di seggi. Poi il centrodestra con Berlusconi di nuovo così che viaggia nella tempesta giudiziaria, e poi anche Grillo deve porsi il problema di che cosa fare di tutti questi voti che ha preso. Sì, anche perché se ne ragionava proprio ieri durante 9 in punto, trasmissione nella quale, vi ricordo tra l'altro, se volete andare a riascoltare qualche voce, abbiamo deciso proprio di aprire i microfoni alle persone del Movimento 5 Stelle per capire secondo loro che cosa si debba fare. Perché poi un 25% dei voti comporta anche delle responsabilità, e a un certo punto te le devi prendere, no? E questo è un argomento molto solido, a cui Grillo però risponde che loro non vogliono allearsi con pezzi del vecchio sistema, che questo sistema lo vogliono abbattere e quindi non vogliono fargli da stampella. È una, diciamo che è una contrapposizione tra l'istinto, tra virgolette, rivoluzionario dei 5 Stelle, quindi se sei rivoluzionario sei per l'abbattimento del sistema, sei per la rovina totale dei tuoi avversari, e invece l'ala, diciamo così, riformista che c'è chiaramente in questo movimento. E i riformisti dicono: no, cerchiamo di cambiare le cose, cerchiamo di ottenere qualche risultato, non sarà la palingenesi, non sarà il successo totale delle nostre idee, ma la politica è fatta di compromessi, cominciamo a portare a casa qualcosa. Quindi da come si comporranno queste due linee che si intravedono, si cominciano a intravedere, la linea rivoluzionaria e la linea riformista, capiremo meglio qualche cosa di quale destino ci aspetta. Orrore, Stefano, se ti sentissero dal Movimento 5 Stelle gli ortodossi direbbero: oddio, già sta parlando di correnti, questa è la vecchia politica. Però in realtà alla fine è così, però insomma, è normale, il mondo anche, è così, no? È un movimento radicale e si è affermato su una spinta molto radicale, ed è evidente che nella spinta radicale ci sono due, sono due modi di intendere la presenza nella vita pubblica. Uno è quello più radicale, quindi rivoluzionario, che vuole la rovina del Partito Democratico in primis, ma del partito di Berlusconi, di tutto un vecchio mondo. Ed è quello che spesso Beppe Grillo incoraggia con i suoi discorsi, con i suoi atteggiamenti. Però c'è anche la corrente di chi ha votato per Beppe Grillo perché magari è proveniente da sinistra, no? Proveniente dal Partito Democratico, e trova il Partito Democratico troppo timido e ha detto proviamo a dargli una bella spinta votando Grillo. Ecco, questi qui, e sono tanti, vorrebbero probabilmente vedere che i loro voti servono a ottenere quei risultati che da solo il Partito Democratico non saprebbe ottenere. Questa è la loro motivazione. Quindi non sono due correnti, sono due modi di intendere la stessa cosa. Stefano, a proposito di Giorgio Napolitano, hai citato tu la presa di posizione forte, la decisione di non incontrare il candidato alla cancelleria tedesca dell'SPD, Steinbrück, dopo quella frase infelice su i due clown, che sarebbero appunto Grillo e Silvio Berlusconi. Una presa di posizione e una decisione che gli ha fatto guadagnare il plauso dello stesso Grillo, che non ha faticato ad esprimerlo sul suo blog, tra l'altro con toni piuttosto enfatici, cioè con gli stessi toni enfatici con i quali attacca la classe politica, ha celebrato il gesto di Napolitano, che di fatto lo ha difeso. Mi sembra un discreto segnale di apertura. Citavamo la settimana scorsa una frase di Dino Risi, che Grillo l'ha conosciuto perché l'ha diretto anche in un film. Dice: state attenti perché Grillo fa il pazzo, ma non è pazzo. Sì, ma sono convinto anch'io. Ma qui abbiamo a che fare con gente che sa quello che fa. Voglio dire, Napolitano, quando ha rifiutato l'incontro con Steinbrück, lo ha fatto per difendere la dignità dell'Italia, ma anche perché pensava alle ricadute in politica interna, pensava esattamente a quello che è successo, dare un segnale di difesa anche di Beppe Grillo sullo scenario europeo, e con questo ha acceso un credito, e Grillo a sua volta ha fatto un ragionamento: se deve combattere i vecchi partiti non può combattere anche le istituzioni, troppi nemici, quindi preferisce aprire un canale di forte disponibilità nei confronti del Presidente della Repubblica, cioè il canale istituzionale, proprio per sentirsi più forte poi nel combattere i vecchi partiti. È una scelta, diciamo pure una scelta politica, che denota una certa abilità. Questo dal lato di Grillo. Abbiamo solamente accennato al caso del PDL. Il PDL ha celebrato quella che considera una vittoria. C'è da dire anche che di voti ne hanno persi parecchi anche da quelle parti, molto hanno raccolto grazie alle cosiddette liste satellite, insomma nell'ambito di 10 liste viaggiava 1.000.000+ di voti, il PDL ne ha persi circa 8 milioni, e però è chiaro che a questo punto Berlusconi, così come era tornato sulla scena in campagna elettorale, resta sulla scena, con tutti i problemi che tutto questo si porta dietro. Ieri abbiamo visto la scena al processo Mediaset, la nuova indagine che lo riguarda per le parole di Sergio De Gregorio, che appunto lo ha di fatto ha testimoniato un caso di corruzione che appunto sarà tutto da verificare. Come valuti tutto questo, Stefano? Ma valuto che su questo versante stiamo vivendo l'ennesima nevrosi, perché sembra un film visto mille volte. Berlusconi che torna sulla scena e ha successo, torna a poter condizionare la politica italiana, la magistratura che si rimette in moto contro di lui, si crea di nuovo il cortocircuito produce la solita paralisi. È evidente che un centrodestra bloccato in questo psicodramma permanente non è un centrodestra che può dare poi un contributo serio a quella ricostruzione nazionale di cui oggi c'è un estremo bisogno. D'altra parte stiamo parlando di forze, di blocchi, il centrodestra, il Partito Democratico, il centrosinistra nel suo complesso, che hanno perso tantissimi voti, come ricordavi tu adesso. Qui stiamo parlando di forze che sono state abbondantemente delegittimate dagli elettori, al di là del fatto persino del grande successo di Beppe Grillo. Gli elettori hanno in buona misura abbandonato questi grandi schieramenti, e la difficoltà di immaginare un centrodestra moderno, di un centrosinistra più incisivo e uno sistema elettorale più equilibrato deriva proprio da questo, che siamo arrivati alle elezioni con un sistema politico malato, profondamente malato e gli elettori se ne sono accorti e hanno dato un colpo durissimo a tutti loro. Ultimo tema sul quale voglio coinvolgerti, Stefano, è la Lega. Perché si è creato in sostanza questa sorta di asse del nord vero e proprio che comprende tre regioni che a questo punto sono governate da tre presidenti leghisti: il Piemonte, la Lombardia e il Veneto. È interessante secondo me perché succede tra l'altro ad un partito che in questo momento conta circa il 4,5% delle preferenze a livello nazionale, e quindi è interessante che questo avvenga, denota una certa abilità tattica e strategica, e soprattutto è la partita vinta di Maroni, se vogliamo. Sì, certo, è la partita vinta di Maroni ed è uno dei tanti paradossi della nostra politica, veramente è intrisa di paradossi. Hai ragione, è un partito che ha perso tantissimi consensi, è stato falcidiato da Beppe Grillo proprio nel nord, che viaggia appunto intorno al 4%, ma che per un insieme di per una congiunzione astrale che denota certamente abilità tattica e anche una serie di circostanze favorevoli, oggi si trova a governare le tre grandi regioni del nord. Io mi auguro che Maroni sappia quel che fa e sappia come usare questa notevole forza, che non trasformi questa ipotetica macro regione del nord in un fucile puntato contro il governo nazionale. In questo momento le istituzioni non avrebbero la forza di reggere a tutto questo. Ci vuole molto pragmatismo e molto buon senso da parte di Maroni, anche perché in questo momento lui ha vinto la regione Lombardia, ma il grande fiume della storia sta toccando altri lidi. I protagonisti della scena non sono i leghisti, ma sono appunto i grillini, e quindi questo anche deve essere un elemento che induce Maroni alla prudenza e al buon senso. Sì, ci vuole, come dire, un supplemento di riflessione. Ti avevo detto l'ultima cosa, in realtà c'è un'ultima cosa che mi interessa, Stefano. Bisogna dire che al di là di tutto, insomma, al di là di che qualità possano avere, è un Parlamento largamente rinnovato quello che ci ritroviamo. E questo, a prescindere da tutto, non è un male. No, è un bene. Questo è l'elemento più positivo, ma io penso che si debba mantenere un po' di ottimismo, perché se non abbiamo un po' di ottimismo quando vediamo un Parlamento così completamente rinnovato, con un 30% circa di donne, con tantissimi giovani, e questo non soltanto per merito dei grillini, dei 5 Stelle, questo anche il Partito Democratico ha fatto un'opera di rinnovamento delle facce, dei volti, che va ricordato. Però ecco, tutto questo non basta ancora. Occorre una profonda cultura istituzionale, occorre una profonda capacità di mettere da parte i disegni di fazione, di parte, per riuscire per una volta a servire la coesione nazionale e l'interesse generale del paese. Espressione che spesso viene usata in modo retorico, ma stavolta siamo davvero di fronte a un passaggio molto delicato, per il quale dobbiamo affidarci alla grande saggezza di Napolitano, ma occorre che poi, come si dice, aiutati che Dio ti aiuta, no? Ognuno deve fare davvero la sua parte stavolta. Grazie anche per questa settimana. Grazie a Stefano te. Folli. Ciao. Grazie Stefano, buona giornata. Stefano Folli, che risentiamo, come sapete, tutti i giorni nel suo punto quotidiano nei GR di Radio 24, dal lunedì al venerdì nel giornale radio delle 8, e poi lo ritroveremo in Voto Antonio, naturalmente, per il punto settimanale la settimana prossima. Italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci a fare un quadro della galleria degli orrori di questa campagna elettorale, almeno per la parte internet. Per tutto il resto c'è stato naturalmente Giuseppe Cruciani con la zanzara. Ho chiesto un aiuto a qualcuno via Twitter, ci scrive Davide Reggiani. Qualsiasi cosa uscita dal sito del Partito Democratico, ci scrive Goldfine. I tweet di Monti e la deriva social delle cariatidi, l'abuso di Twitter e dei blog. Andrea Arrigo Panato, litigio su Twitter tra Boldrin e tesoriere di fermare il declino il giorno delle elezioni. E Marina Petrillo, il video PD su YouTube col montaggio di Bersani e l'inno di Gianna Nannini mi aveva addirittura traumatizzata. Ma sentiamo che cosa c'è in giro. Vogliamo partire da un caso esemplare, l'hashtag Lo sapevi che Silvio, ne abbiamo già parlato, un caso di fallimento di campagna elettorale all'interno di una campagna elettorale assoluto. Perché? Perché è un hashtag che è partito da un'idea dell'onorevole Cassinelli del PDL per raccontare quanto di buono aveva fatto Silvio Berlusconi e chiaramente gli si è ritorto contro. Lo sapevi che Silvio, qualche tweet, lo sapevi che Silvio in 20 anni ha detto che abbassava le tasse per ben 4 volte mentre è salito solo il debito pubblico? Lo sapevi che Silvio si fa venire la folla pagata con panini al salame per far vedere il sostegno? Lo sapevi che Silvio ha cambiato così tante volte idea su quello che farà che serve un grafico per ricordarle tutte? Lato Partito Democratico, e qua è veramente un plebiscito. Un plebiscito per l'orrore del video nel quale su un terrazzo un gruppo di persone al ritmo di We Will Rock You dei Queen canta Lo smacchiamo, si sottintende il giaguaro. Non riesco a trattenere i brividi. Beh, a proposito di video, naturalmente non possiamo non segnalare, ma questa è stata veramente un'idiozia galattica. Il video realizzato da Zanon e Pedrina, candidati in Veneto per Fratelli d'Italia, il movimento di Giorgia Meloni e Guido Crosetto, che si concludeva così: vota con la testa e con il cuore, non votare con il culo, noi amiamo le donne, in particolare Giorgia Meloni. Un livello di omofobia bassissimo che ha ricevuto anche la censura dei due leader politici del movimento. Totò Ruggeri dell'UDC pubblica un video atroce, una sorta di spot elettorale nel quale tra l'altro si vede che legge il gobbo. La cosa bella è che sotto c'è scritto, insomma, c'è l'indicazione della scheda elettorale e sta scritto crociare sul simbolo, proprio così, crociare, che naturalmente in italiano non esiste, è sempre ambito UDC. La cosa peggiore in assoluto che abbiamo trovato è di tale Tricarico, che è un giovane dell'UDC e che si candida con un video che è fatto in questo modo. 24 e 25 febbraio siamo chiamati ad una scelta importante, ma quello che più conta è che la scelta c'è e siamo noi giovani. Avanti tutta, avanti Italia! Un giovane, uno di noi. Per noi, il 24 e il 25 febbraio, la scelta c'è. Vota UDC. Vero terrore, dunque. Una delle cose più divertenti, oltre a proposito del Movimento 5 Stelle, invece, oltre a segnalarvi, naturalmente, di andarvi a cercare ancora una volta i video con i quali gli esponenti del Movimento 5 Stelle si sono candidati per le parlamentarie, appunto, del Movimento 5 Stelle, perché ci sono delle vere chicche, ve ne abbiamo parlato in passato, andate a cercare nell'archivio della trasmissione e troverete sicuramente. Beh, c'è da segnalare quello che è successo nei giorni immediatamente precedenti: il panico da matita copiativa. Matteo Dall'Osso del Movimento 5 Stelle posta su Facebook: ho avuto conferma, la matita copiativa in dotazione alle urne elettorali è completamente cancellabile, provato su carta semplice, a meno che non sia umettata, e quindi bisognava leccare la matita, si sbiadisce leggermente, in quel caso ma rimane. Ora mi chiedo, sulla carta elettorale si comporterà allo stesso modo? Movimento 5 Stelle, e vinciamo noi. Insomma, la teoria del complotto elevata a matita. E poi ci sono cose adorabili che si trovano in giro per la rete e che riguardano partiti minori che magari in Parlamento non ci sono nemmeno entrati e non hanno alcuna possibilità di entrarci. Per esempio, ci sono partiti che esistono ancora o ideologie che esistono ancora e delle quali non sospettavamo l'esistenza. Compagni e compagni, lavoratori del braccio e dell'intelletto, giovani operai e studenti, pensionati e casalinghe, sono Domenico Savio, segretario generale del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, l'unico vero e coerente partito comunista di classe rivoluzionario oggi esistente in Italia, che si batte a sostegno dei bisogni delle masse lavoratrici e popolari e per costruire la prospettiva del socialismo in Italia, prospettiva che passa necessariamente anche attraverso la sconfitta elettorale del centrodestra e centrosinistra e dei falsi partiti comunisti, revisionisti e opportunisti. Alle prossime elezioni politiche il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista partecipa con una propria lista alle elezioni del Senato della Repubblica nel collegio della Regione Campania. Il partito marxista comunista leninista, quando l'ho visto non ci volevo credere. Ci sono partiti poi che sono entrati in Parlamento, meglio insomma alcuni loro rappresentanti. Penso per esempio a Domenico Scilipoti, tanto amato dai colleghi della Zanzara. Però non sono circolati solamente video di Scilipoti in questo periodo in campagna elettorale, ma anche cose di questo genere. Un solo cuore, un'unica idea, per un'Italia ancora tu, ancora mia, per padri e figli e per chi ancora... Perché ha scelto di aderire al Movimento di Responsabilità Nazionale? Ho scelto di aderire al Movimento di Responsabilità Nazionale dell'onorevole Domenico Scilipoti, perché proprio qui io mi posso far valere. Posso far valere le mie e le vostre idee, le idee di giovani che vogliono muoversi nella politica e vogliono volere far valere i loro diritti e le loro proposte. In questo movimento vige sovrana la meritocrazia. Allora ho deciso di far parte anch'io di questo movimento. Ho scelto questo movimento, il Movimento di Responsabilità Nazionale dell'onorevole Domenico Scilipoti. E vabbè, chiudiamola qua questa galleria degli orrori con il movimento nel quale vige la meritocrazia. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. In quest'ultima parte, cari ascoltatori, vogliamo venire a come è stata questa campagna elettorale su internet, ma non solo. Vi abbiamo raccontato poco fa la galleria degli orrori, ci sono tantissime altre cose, segnalatecele. Vota Antonio R24 è l'account Twitter della trasmissione, Simone Spezia è il mio, c'è la nostra pagina Facebook, c'è l'email votantonio@radio24.it che comunque recuperiamo, perché di materiale ce n'è d'avanzo. Vogliamo parlare adesso di come è stata a tutti gli effetti, se la rete ha veramente avuto un ruolo e anche di quanto abbiano fallito i sondaggisti rispetto a internet. Ne parliamo con Luigi Curini, buongiorno. Buongiorno. Ospite più volte in questa trasmissione, docente all'Università Statale di Milano, tra le anime di Voices from the Blogs, un progetto con il quale si prova ad analizzare la rete e a cavarne tendenze politiche. Io ricordo sempre il grande successo. Luigi, avete azzeccato gli swing states negli Stati Uniti, insomma, quindi no? Sì, no, lì era andato decisamente bene, decisamente bene. Forse... Sia nei swing states che nel range tra Obama e Romney era stato, l'avevamo ben azzeccato. Quindi niente male. Saluto Andrea Sarubbi, buongiorno Andrea. A voi, buongiorno. È un giornalista, è deputato, ex deputato del Partito Democratico, diciamo, ha finito adesso la legislatura, sostanzialmente non è stato ricandidato ed è l'inventore di un bellissimo progetto che si chiama Open Camera, con il quale ha raccontato, convincendo anche altri colleghi parlamentari, i suoi colleghi parlamentari a farlo, a raccontare in diretta i lavori della Camera su Twitter con l'hashtag appunto Open Camera. Partiamo dal fallimento dei sondaggi e dalla vittoria della rete. Curini, che cosa è emerso, Luigi? Beh, diciamo che anche noi come sondaggisti abbiamo seguito questa campagna elettorale. Nel nostro caso abbiamo analizzato da metà gennaio fino a lunedì a mezzogiorno l'andamento delle preferenze espresse online, in particolare su Twitter. E normalmente noi analizzavamo, come giusto per dare qualche dato, noi analizzavamo più o meno 200.000 tweet ogni 3 giorni e facevamo una stima su una settimana, quindi più o meno fra 1,5 milioni e 2 milioni di tweet. Questa era la nostra banca dati che analizzavamo per cercare di capire le preferenze espresse agli utenti stessi di Twitter. Ma lo vedevate, Luigi, ma lo vedevate sto Movimento 5 Stelle al 25%? Guarda, noi quello che noi abbiamo visto è che nell'ultima, proprio veramente negli ultimi 8 giorni, una crescita esponenziale anche in rete, anche sul sostegno espresso in rete verso il Movimento 5 Stelle. C'è da dire che la nostra previsione finale sul Movimento 5 Stelle in particolare non è stata poi neanche molto differente rispetto a, sbagliando come è fatta dagli altri sondaggi, cioè intorno tra il 20 e il 21%, ma c'è un aspetto interessante che noi abbiamo colto e gli altri sondaggisti non hanno colto. Se tu sommi quello che noi abbiamo chiamato l'area dell'anti, dove l'anti è anti-casta, anti-establishment, in qualche modo rinnovamento, un'area che va da Movimento 5 Stelle per passando per Fare e Rivoluzione Civile, cioè il partito di Ingroia, uno potrebbe chiedersi ma cosa ci azzecca ad esempio Fare col Movimento 5 Stelle? Beh, guardando, leggendo i tweet, quello che si notava è che, almeno dal nostro punto di vista, nella nostra analisi, gli utenti che esprimevano un sostegno per il Movimento 5 Stelle esprimevano anche un forte apprezzamento o per Fare o per Rivoluzione Civile. Ora, se noi consideriamo assieme questi tre partiti che per l'appunto noi abbiamo chiamato il quarto polo, il polo dell'anti in qualche modo, la nostra stima, la stima che abbiamo fatto su Twitter e la stima effettivamente i voti raccolti da queste tre forze erano fondamentalmente identici, sovrapponibili, mentre questo non avveniva nei sondaggi. Questo secondo noi significa due cose. Primo è che da questo punto di vista i social media e l'analisi dei social media ha permesso di catturare meglio la pancia degli italiani, perlomeno la pancia di questo gruppo di elettori che va sotto il nome di anti. E in secondo luogo è che sempre sulla base della nostra analisi, quello che probabilmente è successo tra domenica e lunedì, che ha spiegato questa forte crescita del Movimento 5 Stelle, è che anche diversi elettori di Fare o di Rivoluzione Civile, una volta arrivati di fronte alla cabina elettorale, hanno deciso di votare per il Movimento 5 Stelle. E questo in qualche modo spiega questo spiega che cosa è avvenuto. Andrea Sarubbi l'altro giorno, Orfini del PD a 9 in punto scherzava e diceva: io ai sondaggisti gli farei una class action. Forse il quartier generale del Partito Democratico farebbero bene a prendersi Voices from the Blogs, no? Ma guardi, io avevo dei sondaggi che avevo letto, insomma, degli ultimi giorni, che non erano poi troppo lontani dalla realtà. Cioè, uno che avevo letto di questi segretissimi che giravano dava Monti all'11 e mi pare che sia stato poco sotto, no? 10 e qualcosa. Sì. Davano Grillo poco sopra il 20 e poi è arrivato al 25, però nel frattempo c'è stato anche lo smottamento di Fare, di Giannino, no? Come sì, diciamo poco fa. E davano la Lombardia persa di 4 punti, credo si sia persa di 5 per quanto riguarda il Partito Democratico. L'unica cosa che ho visto sbagliata era che davano la Sicilia al PD. Invece la Sicilia poi l'ha vinta il PDL con 3 partiti quasi sullo stesso piano, insomma. Sì. Quindi per quanto mi riguarda credo che i sondaggi abbiano avuto, come posso dire, un effetto satellite in queste, sì, elezioni, cioè hanno registrato cose di 3 giorni prima, di 4 giorni prima, e quello è stato lo sbaglio, perché secondo me se si andava avanti in altri 2 giorni Grillo prendeva il 26, se si andava avanti un'altra settimana prendeva il 28, eccetera, eccetera, eccetera. Se si fosse votato una settimana prima avrebbe preso il 22. Quindi era un'onda che stava montando ed è stata presa nel momento in cui stava montando. Nel momento nel quale stava montando. Ecco, più in generale, io mi soffermerei su com'è stata questa campagna elettorale che abbiamo definito la prima campagna elettorale con un'azione piuttosto incisiva della rete, da persona che in rete ci sta, che ci ha lavorato, l'impressione qual è? Io l'ho trovata molto noiosa, veramente molto noiosa. Sarà che non ero occupato in prima persona stavolta, no? Quindi chiaramente non andavo a cercare voti per me, quindi l'ho vista da osservatore un po' più esterno, però l'ho trovata veramente noiosa perché c'è stato l'assalto dei candidati che improvvisamente si sono scoperti twitteri oppure utenti di Facebook, ma chiaramente come si dice in spagnolo se le veia il plumero, cioè gli si vedeva la sottoveste, cioè si capiva che facevano quello soltanto per pubblicità politica, e quegli account Twitter o Facebook aperti credo che con la stessa rapidità sono stati già abbandonati, per cui non è che abbiano portato un granché al dibattito in rete i nuovi arrivati. Dal punto di vista di candidati di Grillo il peso specifico di ognuno è pari allo zero, perché come ha spiegato molto bene Dino Amenduni di Proforma in un recente slideshow che ha pubblicato in rete, lì è tutto centralizzato. Sì. Quindi è vero che c'è un blog, però a mio parere non siamo ancora in un momento in cui in Italia la rete faccia la differenza a livello di consensi. Però forse si diceva all'inizio della trasmissione, la cosa interessante è che questo sta cambiando proprio con la forza del Movimento 5 Stelle. Abbiamo visto che molto del dibattito che è andato avanti in questi ultimi giorni, cioè fiducia o no ad un eventuale governo Bersani, si è svolto esattamente in rete. Lo stesso Matteo Renzi, dovendo rispondere, poi è uno che la rete l'ha sempre usata in maniera efficace, dovendo rispondere alle indiscrezioni, ha usato solamente internet, no? Questo è vero, cioè nel senso che la rete è diventata uno dei contributi, una delle fonti di prima mano, no? Mentre prima magari era l'agenzia sotto casa di Grillo, no? Adesso sentire le agenzie come quella che è uscita, mi pare ieri mattina, Colf, due punti, Grillo non è in casa, fa veramente ridere, perché non te lo immagini neanche più che una notizia possa arrivare rubata dal giornalista che si accampa sotto casa di Grillo. Se Grillo vuole dire una cosa, accende il computer e la mette su Twitter, quindi non ha grossi problemi. Però da questo a sfruttare appieno le vere potenzialità per cui la rete è nata, cioè il famoso uno vale uno di cui parla tanto alla fine il Movimento 5 Stelle, secondo me siamo molto lontani. Cioè la forza di Grillo a livello mediatico è che questa rete viene poi ripresa dai media tradizionali, quindi anche il modo in cui Grillo si è imposto all'attenzione pubblica è stato favorito moltissimo dalla televisione, cioè a Grillo la par condicio, interessava e non interessava. Ultima domanda, quindi è in realtà ne abbiamo già parlato in questa trasmissione, in altre occasioni, in realtà è un uso di un mezzo che di suo sarebbe orizzontale come la rete in maniera verticale. In maniera verticale con i media tradizionali che ti vengono a rincorrere e ti fanno un piacere, cioè non devi più cercarti l'ospitata nel programma. Anzi, tu puoi dire di no, tanto sono loro che vengono a cercare te e tu tramite la rete, tramite il tuo canale verticale dici soltanto quello che vuoi dire, quindi ti sottrai alle domande, eccetera, eccetera, eccetera. La rete per le previsioni, la rete come luogo di dibattito, ma ancora utilizzata in questo modo. Terremo sotto controllo, ve lo prometto, almeno ci proveremo con i nostri poveri mezzi, quanti candidati hanno aperto account Twitter, pagine Facebook e chissà cos'altro, siti internet, blog, e insomma ci aspettiamo, come ci diceva Sarubbi, dato che è già successo in passato, che smettano di usarli completamente. Vedremo che cosa accadrà. Grazie ad Andrea Sarubbi, grazie a Luigi Curini. Per quanto mi riguarda, se volete ci risentiamo lunedì mattina con 9 in punto, altrimenti questa trasmissione torna sabato dopo il GR delle 9. Italia!